5i. Ascolta e replica. Quel giorno finì l'esame in anticipo. Anche noi finimmo in anticipo. Quel giorno partii in ritardo. Anche noi partimmo in ritardo. Quel giorno pulii bene l'appartamento. Anche noi pulimmo bene l'appartamento. Quel giorno spedii un fax al direttore. Anche noi spedimmo un fax al direttore. Quel giorno stupii tutti. Anche noi stupimmo tutti. Quel giorno obbedii al nonno. Anche noi obbedimmo al nonno. Quella volta scoprì tutto. Quella volta anche loro scoprirono tutto. Quella volta applaudì calorosamente. Quella volta anche loro applaudirono calorosamente. Quella volta offrì da bere a tutti. Quella volta anche loro offrirono da bere a tutti. Quella volta soffrì molto. Quella volta anche loro soffrirono molto. Quella volta servì un pranzo squisito. Quella volta servirono un pranzo squisito. Quella volta garantì per tutti. Quella volta garantirono per tutti.